allora ci arriviamo la forza. Bene, bene. Boh, non la sento per adesso e vabbè. Tanto non c'è problema, non ci coprono i due. Con che apparato stai uscendo con quel microfono? No, io. Nonno? Cosa? Ti ha mangiato, ti ha coperto. Ammazza, e sai che canale? Gianni, ci sei ancora un attimo? Ci sei. Giacomino, ci sei? Sì, ci sono, Giacomino. Cappa, questo qua è il Cobra, come esce? Guarda, 1, 2, 3, prova. Aspetta, ti faccio la registrazione, un attimo. E io fammi la registrazione, così lo voglio sentire anche con l'eco. Poi alzo l'eco per vedere come esce, dai. Un ultimo passaggio va meglio, mi prova, aspetta che lo metto. Salva. E mi vai, un attimo. Ecco. Dai, prove tecniche di trasmissione, microfono normale, normale. E con eco, K. Guarda come va con l'eco, cambio. Ok, adesso te lo mando, aspetta. Così mi sembra più bello. Corica. La registrazione è fatta male, non si ricupera di lui, mettilo vicino alla colonnina, se no non si sente. Aspetta, io faccio una cosa, attacco la cassa e la metto vicino alla cassa, scusa. Poi? Ehi, questa qua è la prima registrazione che sto facendo con il microfono normale. Normale, invece così mi metto un po' di eco. Guarda com'è, se va meglio così oppure normale. Normale. Mandale. Mandale. Te lo sto mandando. Ecco, ecco, ecco. A voi. Riccardino. No, va bene tutti e due i passaggi, dai. No, sì, no, già vanno bene. Cavagala. Hai sentito la presentazione? Cosa? La presentazione, l'hai sentita? Sì, l'ho sentita. Regard, adesso cosa ti deve arrivare? Nulla? No, non mi deve arrivare niente. Se Saturn non lo stai cercando, guarda che ce n'è uno, 350 euro, il turbo però, quello che esce con 100 watt. Ah, addirittura? Esatto, ce n'è uno che esce con 100 watt, si chiama il Galaxy Turbo. Alan 555, sono uguali, marchiati diversamente, ma sono uguali. Sì, lo conosco il 555, esiste anche il 560, mi sembra che è un po' più evoluto. Sì, sempre con 100 watt escono comunque. E a parità di prezzo ti conviene quello da 100, anche se a me piace più il Galaxy normale, come stiti. Ah, ho capito. Allora, quando? Aspetta, provo un altro apparato, faccio un paio di prove. Sì. Così li faccio girare. Farlo girare. Hola. Bene Riccardo, bene. La radio è cambiata? È più forte l'altra, però va bene anche questa. Ah, ho capito, adesso è un po' alzato. Ma sei agganciato? No, ho alzato il microfono dal microfono. Ah, vaga, ma no, va bene. La mia com'è? Come la senti, cambio? Cosa? Questa come la senti la radio? Un po' modificata, comunque sempre buona. Cavagava. Adesso. Aumentiamo, guardiamo un po', attenzione, Giacomino. Va sempre bene, questa come io un po' amplificata, hai alzato se ho capito bene. Ho alzato l'eco, dai. Fatto alzare l'eco, è amplificato. Ora, 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, prova. Cambio. Attenzione Riccardo, cambio. Attenzione, sono qui. Che era. Riccardone, ci sei, cambio. Sì, ci sono, adesso ti prendo un altro apparato. Tu vuoi andare in FM? Posso andare? Perché praticamente è un apparecchio che fa solo FM, un baracchino solo FM. Ma è FM? Aspetta un attimo, lo sta prendendo babbo da dentro, ancora sono con questo. Ti avviso, sono sempre sul canale 10 comunque. Gianni, sto uscendo. Gianni, ci sei? Regard, Vicese. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Non posso male. Gianni, ci sono io. Abbassa già poche, abbassa quel microfono, che po' fotte a quest'ora. Abbassalo poco a poco, Riccardo. Io ho abbassato. Ma cosa? Se c'è per lo stesso. Adesso è troppo, ti ho fatto come il sussicchio, troppo nuda. Adesso come va? Adesso va meglio, dai. Cioè va bene a quest'ora, che se non disturbiamo, dai. Tu non disturbi a nessuno, ma io sì. Io sono abito in un palazzo, quindi devo riguardarmi alle regole condominiali. Ah, ho capito, meno male io abito in campagna, che almeno non hai disturbi. E soprattutto non disturbi gli altri. Esatto. Quindi andate in campeggio, Riccardo. Sì, non lo so, bisogna vedere come cambia il tempo. Ah, a volte c'è il sole, a volte sparisce, non se ne conta niente. Ancora è perturbato, bisognerà vedere un po' più avanti, più tardi. Sì, se non basta guardare le condizioni del tempo su internet, te le accorgi subito se puoi andare o no. Se mette pioggia, non è cosa ci verrà a fare. Raga. Che cosa c'è? Poi ti ho fatto guardare il meteo, te ne accorgi subito come va il tempo. Lo so, ma qualche volta sbaglia, non si capisce più niente, nulla. Lo so. Vabbè, ma quasi sempre lo azzecca, va. Poi mi sono fatto una bella doccia adesso. E sono bello fresco. Perché stendendo la roba mi sono abbronzato, aspetta il caldo che c'è, il sole è proprio forte, adesso si è abbassato di nuovo. Sì, lo so, è a momenti, infatti quando fa troppo caldo mi butto su in piscina. Ma sei già il costumino tu? No, non mi interessa, anche se ho pantaloni o maglietta, se c'è troppo caldo mi butto. Ah, così? E poi stai con la manettina bagnata? Sì, vabbè, tanto c'è caldo. Che ti fa male, così passa un po' d'aria e si prende un malato. Quindi mi sono dimenticato di spegnere lo scaldatore. Mi sono fatto una doccia adesso, aspetta un attimino che torno subito, che vado a spegnere lo scaldatore. Ehi, sono qui. Fatto. Ehi, ma come sta Tyson? Che cosa sta facendo? Tyson si è sdraiato nel divano e sta dormendo. Ah, cappa, se ne frega. Lui è un bel tranquillo, no? È soprammobile in casa, non disturbi di nulla. Quando è bello sveglio mi sta sempre appresso, sembra la mia ombra. Sempre appresso a me. E poi, quando si stanca, va, si corica. C'è una copertina sul divano, si mette sulla copertina e via, e si trova. E poi dicono vita da cani. Vabbè, ci sono i cani che sono fortunati e quelli che sono anche sfortunati. Ci sono quelli randaggi, poveracci, che prendono tutte le intemperie, si prendono le zecche, si sporcano, si attaccano ai forassacchi. Quella è una brutta vita. No. Però di buono sono liberi. Vabbè, ma il cane si affeziona al padrone, non soffre a stare in casa, lui è contento, quando torna a casa mi scodinzola tutto, capito? Mi salta addosso, fa Ma secondo che il padrone gli capita? Vabbè, quello sì. Ci sono anche quelli disgraziati che li picchiano, li fanno. Io una volta all'altra ho detto cos'è uno perché l'ha picchiato col bastone il cane. Senta, perché non te lo tiri tu addosso il bastone? E noi cosa non ne frega? Come cosa non ne frega? Se tu ti andare a dare un altro colpo, ti sto chiamando le guardie zuffi, le vedrai. Ho capito. Ma adesso vedo in quanto ha 5 anni? Sì, dai, sono 5 anni, li ha compiuti il 16 marzo, 5 anni. Ah, ho capito, il 16 marzo. E hai fatto la torta? No, l'ho comprato, mi ho ordinato una pettorina celeste azzurra con la scritta Tyson dalla Germania. Ah, bella. No, noi l'ultima volta al bassotto gli avevamo preso il pastè e messo la candela. La cosa è della Julius Kapanov, la pettorina tedesca. Ah, ho capito, sì, la Julius Kapanov, sono tra le migliori, costano un po'. Vabbè, ma sono belle. C'ha il nome, capito? Te la mando, te la mando. Sì, Amanda. Avanti. Vista, ricca. Gianni. Beh, vista, ricca. Sì, bella, la pettorina. Come si passa in FM? Prima dovevo provare una panchina M. Prima la panchina M e poi con linea FM. Ma ho capito nulla. Devi fare? Panchina M mentre tu eri in FM. Poi come sono passati in FM, tu eri in AM. Può darsi, non lo so. Io sono sempre una M. Io adesso non mi sono mosso da qua. Kappa bella Giulio Scappa 9. Hai visto col nome scritto? Sì, l'ho vista, bella. E anche fosforescente di notte. Sia il nome che le zampette che ci sono, tutto fosforescente. Aspetta, cos'è? Su ordinazione? Sì. Praticamente devi andare nel sito Julius, poi c'è anche il numero di telefono, parlano anche l'italiano, c'è uno che parla l'italiano, puoi anche telefonarli se tu. Conviene telefonarli perché ti dicono come la vuole, cosa ci vuole disegnare, io ti ho fatto disegnare le zampette prima e dopo. Ok Gianni, avanti Giulio. Giulio fissa, poi non entra. Giulio, io non ho sentito nessuno. E ha parlato sopra di te. Ma sicuramente non era Giulio. Oh vabbè, a me è sembrato Giulio. Giulio sei tu. Non era Giulio sicuramente, non è fa Giulio queste cose. Ti avrebbe risposto Giulio. Boh. E si può mettere, sto scendendo con 3 watt, già si può mettere a passarmi sopra. Se sto scendendo con 3 watt, quanto ti sta arrivando? Per non disturbare. Forte, 9.30. Sto scendendo con 3 watt e mezzo, va. Sì, allora si attacchi gli sfondi timpani. Beh. Fare un po' come sicuro. La radio bella è questa qua. Sì, va bene, bella. È il Super 5. Cara gara. Va bene. Chi è avanti? Tifra, vai. Che cosa ti serve? Un alimentatore? L'ultimo che c'è, io ne avevo uno, ma ne ho uno da 2 ampere se ti può interessare. Io l'avevo ordinato da Tecnocomunicazioni, mi pare, però non so se ci sia più, perché hanno bisticciato, ma che voglio, mi sa che hanno chiuso. Scrivi su Google venditori alimentatori da 25 ampere, molto ci vuole, 35, dai tanto il vuoto. Ecco, e ti manda tutti i venditori. E il K ci vuole la 50, io ce l'ho la 50, ma non te lo posso dare perché lo sto usando io, mi serve. K, sì, il K ci vuole almeno la 50, 45-50. venditori, alimentatori e 50 ampere. Boh, vabbè. E ti ridassi quelli che lo vendono. Dopo vedi tu quello da prendere. Riprendi il microfono su Google, premi il microfono e dici alimentatore 50 ampere, venditore alimentatore 50 ampere, e ti dà tutti i dici di dove. Apre, avanti Riccardo. Non lo sento, chi è? California. Franco di Sosso. Ah, di Sosso, scusa, ciao Franco, non ti sento, ti sento per lo QRM. Eia, è con un portatilino, Riccardo, con un portatilino che ha 4 watt e sto facendo 40 anni esterna però. Sento che si trascina un fruscio, a te quando ti arriva? Boh, non ho guardato il segnale, non mi voglio alzare, ma penso sui 6-7, dai, non è molto forte. No, di radio. Radio è basso, la radio sarà 3. A K. E a te non ti arriva nulla? Un fruscio di QRM arriva e devo proprio attaccarmi l'orecchio alla cassa per sentirlo. Cazzo, attorno al microfono è alzato, no? Non ho toccato niente, non ho alzato niente. Non sta alzando le voci, perché stai arrivando troppo forte e distruggi. Io non mi voglio mettere le cuffie, se no mi tocca mettermi le cuffie. Allora diminuisco, aspetta un attimo. Adesso è troppo. Così va meglio? Così va bene, dai. Così, mi stai già sta russando, sento le russate da poco. Qui, è popolata la frequenza, ti sei comprato un bel apparato e mi pare che non sta entrando nessuno. Io? Tu ti hai comprato un bel apparato, tu per che cosa? Se non entra gente cosa ti deve fare? Di collezione, mi avete fatto prendere la mania. Noi te l'abbiamo fatta prendere. Il vizio degli apparati, l'Alzheimer ti è venuto di colpo, te ne hai comprato 1000 tutti insieme. Ma altro che coronavirus, mi è venuta la malattia di comprare troppi apparati. Dati un freno adesso che ne hai, fregatelo, adesso devi più, già te ne fai tanti apparati. Poi ti tocca trasferirli, ma ogni volta tutti i microfoni, tutto qua, ti tocca portare dentro. No, ne porto solo uno di microfono per non farmi tanti viaggi, porto un apparato e un microfono, gli altri stanno dentro. Io pensavo che li trasferivi tutti, e te già li costa di volta. Peccato, ti dovresti fare un posticino nella tua cameretta. Mi sto organizzando. E così non stai fuori, capito? Stai dentro casa. Ma infatti. Poi il museo te lo puoi fare anche lì. Il museo degli apparati te lo puoi fare lì, la pettura. C'è qualcun altro che fa il museo che non è ai miei livelli, molto di più. Lo sappiamo. Ho visto tutto, ma non da adesso, no, da quel dì. Adesso ne avrà aggiunto altro. E anche lui ha la mania. Sì, è una malattia quella. Una malattia proprio. Eia, ma Franco c'è ancora o se n'è andato? Non ho capito cosa voleva il suo alimentatore. Mi si è bruciato l'alimentatore, non può usare il capo perché è senza alimentatore. Si sta cercando qualcuno che lo venda. Di andare su Google e cercare venditori alimentatori, così almeno si sceglie quello che gli conviene e ce lo prende. È molto bello che funziona bene, l'ho provato, non era mio però, l'SP50. Io ne ho di persino della Proxen, ne ho della, come si chiama? ricordo come si chiama l'altra parte. Densi. Però anch'io già ne ho di alimentatori, ne ho 1, 2, 3, 4 e 5, 5 alimentatori. Mi hai capito? Mi batti di uno. Io invece chiamerne 6, chiamerne 5 ne ho 4. Vabbè, ne uno però di apparato praticamente. No, qui non li uso neanche, c'è un parcheggio, ne ho della ZG, della Intec, della Nissei e un altro che non so che marca sia, sono di quelli, come dire, per gli amatori. No, ma io c'ho tutti gli alimentatori con strumenti, capito? Sono diversi di amperaggio, li ho da 50 ampere, da 35, sono tutti grossi. Scappa. Quelli della Intec che non ne fanno grossi grossi, fanno da 2 da 10 ampere al massimo. Sì, ma infatti lo uso per i barchini quello, è da 3.5 ampere. Da quanto? Da 3.5. Ah, quelli sono cioccattoli. Lo so, ma era di babbo, lo usava e ce l'ha ancora. Ho capito, io ne ho uno da 2 ampere della GBC. Ma esistono gli alimentatori della GBC? Esatto, ma ti parlo, forse c'ha 40 anni quell'alimentatore, è nuovo nuovo, è nuovo nuovo nuovo. Mi manca solo il coperchio, perché sono andato a verniciare, c'era la bomboletta che era difettosa, mi ha fatto tutte le gocce, mi sono incazzato e ce l'ho buttato via. L'alimentatore ce l'ho ancora. E quello lo uso per fare le prove, capito? Sto provando qualche microfono, qualche cosa che devo andare in cucina. Mi siedo sul tavolo, lo metto sul tavolo e provo. Ho capito, sì. Un alimentatore di riserva serve sempre. Infatti se ne avevi solo uno poi ti si brucia e cosa fai? Meno male che io ho qualche cosa, anche se mi si brucia uso apparati che vanno a 220, non ho un problema. Ma infatti, no, io ne ho diversi. L'ultimo che ho ordinato è 35 ampere e c'hanno IOS Black. Praticamente per i rumori, per queste cose, non si sentono i rumori, è un filtro, praticamente. Anche adesso io sto usando l'NB, noise blanker. E poi ne ho uno da 50, uno da 45 mi pare, e sono tutti quanti belli quelli che ci vediamo. No, esattamente ne ho 2 e 4 qua, più quello da 2 ampere sono 5. Ho capito. Invece di strumentazioni quanti hai? Rosmetri, bassmetri? No, io ne ho uno grande che fa per tutti gli apparecchi. Io quando stacco l'apparecchio c'è sempre il rosmetro attaccato, il rosmetro vattometro sempre attaccato. Io basta che tolga, che metta lo spettrometro da un altro apparecchio, mi misura le stazionali e tutto, capito? Io ne ho due di quelli grossi e due di quelli portatili. No, io ce li ho con la strumentazione abbastanza evidente. Di quelli ne ho due, invece quelli piccoli che ti puoi portare anche in campeggio, non ti devi portare quella cosa gigantesca, quelli con l'antennino piccolo. Ah, sì, il misuratore di campo. Quello. Perché ancora li fanno, con quell'antennino che c'ha il cerchietto sopra. Sì, aspetta, mi tromando. Adesso ho tolto l'antennino perché me l'avevano spezzato, non faccio nomi, dico, da famiglia mia. Poi adesso ti faccio una foto. Sì, te l'ho mandato, questo lo uso qui, è praticamente questo. Il mio è rosmetro, accordatore e wattmetro. E anche questo, mia, aspetta. Ah, ma i HP1000, mi ce ne ho due di questi. L'HP1000. Tu hai l'HP1000. K. Io ho il TM1000 e l'HP1000. Io c'ho questo qua e va benissimo. No, lo so, già va bene. Ma cosa ne fai di tanti? Basta uno e lo usi per tutti. Ma non li ho presi io, praticamente avevo preso uno stock di materiali CD e c'era questa roba dentro. Ah, ecco. Ok. Adesso che cosa stai usando, se lo posso chiedere? Il 3009 con la BB più 5. La K. Va watt 3,5. Quello quanto canali ha? 40 solo? Sì, 40. Puoi andare su canali alfa? Penso di sì con Clarifer. Ah, K, già va bene. Devo cercarti, però capito, devi parlare, io ti cerco con Clarifer e vado sul canale alfa. E io poi comunque è un bel apparato, va bene anche, esce bene. Mi piace la modulazione che è naturale. Oh sì, è bella. E poi anche vero, il veicolare il 39, no, va bene, è anche bello. Rispetto al Tornado mi piace, è più bello quello, che questo è tutto nero. Superstar 3009, poi c'è anche digitale quello lì, Per 3009 si chiama, o il 4009? No, 3009 il mio. Ma quello digitale qual è? 3009 mi pare digitale. È molto bello, ma a me la roba digitale un po' non mi piace molto, dai. Devi stare sempre regolando, facendo, entrando in menu, sotto menu, poi... Aspetta che me lo guardo. C'è da perdere la testa. Ma sai che possiamo trasmettere anche in digitale noi con un'app che c'è? Ma quale? Aspetta, quella della Midland? No, non c'entra nulla la Midland. È un'app che si scarica e puoi trasmettere in digitale con la 27, capito? Come si chiama? Non lo so, me lo stavo dicendo un amico stamattina che ha quest'app qua e trasmette in digitale, capito? Col computer. E vabbè, comunque a me mi interessa fino a un certo punto, no? Non è che mi piace più parlare tranquillamente così e basta, bisogna stare a fare mille cose. A proposito, mi sono preso una coppia di canalini di razza, di cui sempre io uso le razze, che si chiamano Agatha, testa rossa, vai e guardali. Ma l'altro non l'hai trovato? No, quello che mi è scappato, no, due li ho presi e uno non sono riuscito più a trovarlo. Tutti i giorni scendo in cortile, ma non l'ho mai visto. Sono sceso anche col cane, che lui c'ha un bel rifiuto, ma quell'altro me l'ha fatto trovare lui, era sul cancello, sembrava che mi stesse aspettando. Sul cancello, poi ho volato su un albero, poi ho saltato un muretto, sono entrato nel nostro condominio, sono entrato dove c'è il bombolone del gas, è riscappato, è rientrato nel mio cortile. Insomma, guarda, sono stato 3 ore per prenderlo, poi col coppo gliel'ho buttato sopra e l'ho preso. Ah, ho capito. Lo so, è stata fortunata quella, le avevano dato un inseparabile a questa amica di mamma di Alghero. Oh, gli è scappato dalla zona, come dire, industriale fuori, tipo i punti di Alghero. Oh, l'ha ritrovato al porto, con i contatti, ha messo i volantini e l'ha ritrovato. Ma su Facebook? No, anche su Facebook, poi ha messo i volantini per strada. Che fortuna! Ascolta, ma gli inseparabili parlano? Sì, parlano. Tu ne hai che parlano? Sì, inseparabili non ce l'abbiamo più. Sono morti, che avevano già una certa età, però parlavano, sì. Ah, non lo sapevo. Pensavo che fossero così, che non parlassero, là. No, quello che abbiamo, poveraccio, era bravissimo perché parlava, andava fino al cancello su dove parlavo all'inizio con la macchina e tornava e ti si appoggiava sulla spalla e ti chiamava per nome. Ah, che forte. Bello però. Amica mia ne è scappato uno di quelli grandi, tutti colorati, ce li ho presenti, gliel'ha regalato il genero che c'è l'allevamento di pappagalli. C'ha tutti i pappagalli possibili e immaginabili, tutte le razze. E anche quelli grandi che sono centenari, hanno una vita di 100 anni. Ma quanto ho capito, gli ara? Esatto, gli ara. Quelli tutti colorati, gialli, azzurri, gliene è scappato uno di quelli lì. Praticamente lei lo lasciava libero per la casa, gli andava sulle spalle e cose. E un giorno ha aperto la finestra, come faceva sempre, stava cucinando, è volato e non è più tornato. E boh, lo sai, da Bologna c'ho anche quelle cornacchie. Io non sopporto le cornacchie perché mi hanno, prima aveva anche tagliato un'antenna. Ti sento, tranquillo, ti sento, a me non mi fa niente. Tu mi senti? Sì, positivo, ti sento normalmente, come se non ci fosse. Allora, fregati, devi ci compri il QRM. Ma se non fa molto? No, ti sto dicendo che tu la facci di brutto. È una portante che non vale nulla. Ma scappa meglio. Santiago 9 e 5 è arrivato qua. Niente, no. A te quanto arriva Giacomo? Ma va, senti, fatto la cosa che fa, adesso la porta. Robè, metti la portante. Che Robè? Ti ho detto bello bè, bello bè. Ah, ho capito, Robè, metti la portante. Siamo facendo Roberto Quadrato. Ma non è buono perché non stiamo parlando, tu dici di vedere quando parliamo. Sei andato a vederli quei canalini che ho preso per la testa rossa. Si chiamano Agatha. Agatha, vai a vederli, testa rossa. Sì, li ho visti, belli. Li ho cercati, sembrano canarini proprio. Sì, sono canarini, è una razza di canarini. C'ho gli Agatha, c'ho gli arlecchino portoghesi, vai e guarda che gli arlecchino portoghesi, c'erano anche 5 colori. Ah, ma hai fotografato anche, hai preso un altro arlecchino anche? Sì, un arlecchino maschio, l'arlecchino portoghese maschio. E sto facendo un incrocio arlecchino portoghese con fattore rosso, cioè praticamente un canarino completamente rosso e l'altro un arlecchino portoghese. Voglio vedere cosa ne esce fuori. Stanno già facendo la cova, hanno 4 uova. Ah, ho capito, sono stia a vedere. Fra un po' sono riuscita a sbagliare i cricetti, già ne hanno preso, ne devono prendere 3 e me ne mancano 2. Chiediamo a quello della portante se vuole 2 cricetti. Stanni. Eia, amico della portante, di voi 2 cricetti, a morsicarti il dito così non ne metti più. Eia, così ci piaci, no. Ma c'è ancora. No, dov'era Franco, c'è ancora. Aspetta un secondo. Cosa c'è? No, guarda, guardami l'inseparabile. Quanto costano la coppia di inseparabile? Solo. Non è una cosa così grande. Mi aspetta e cerco quanto costano qui. Oh, Riccardi. Sai che cosa dice qua? Che gli inseparabili non parlano, che sono socievoli tra di loro, ma con gli esseri umani no. Boh, non lo so. Perché dico, io il nostro parlava, boh. Mia sorella li ho trovati, i validori a 20 euro l'uno. In base al sito Idee Green, non parlano, i pappagalli inseparabili sono socievoli ma tra loro, non con gli esseri umani. Non so cosa dirti. Contraddetto subito. Vabbè, comunque ci sono, comunque però sono bravi, sono tranquilli. Secondo me sono i pappagalli che a volte sono quelli con più socievoli. Aspetta che questo qui forse parla, aspetta. Sì, cosa sta parlando? Guarda. Parlano. Mi sta mandando i baci, guarda. Aspetta. capito. Non... Ah, ma guarda, volevo prendere l'ara, però era un po' così, boh. Davvero, ma fa troppo casino, no? Dei fischi allucinanti, ti assordano. Io quando lavoravo ce n'era uno all'internato di una signora che abitava lì e mi prendeva in giro. Quando chiudevo il furgone faceva un cigurio, lo sportello, lui lo faceva prima di chiudere lo sportello. Diceva, ma come cavolo ho fatto a fare il cigurio se io non l'ho chiuso ancora? Poi mi sono guardato e ogni giorno la signora mi ha detto, è questo delinquente che la prende in giro ogni volta. Poi suonava il campanello e diceva, apposta, deve se sentiva il postino. Questo è un merlo indiano? Sì, sì, un merlo indiano. Faceva anche l'allarme, ha fregato per un po' di volte a un tipo, poi se ne è accorto. Metteva l'allarme e lui lo faceva prima di metterlo lui. E questo rimaneva incantato, mi ha detto quella signora. Che suona. Sì, fanno i meridiani, io di parlare parlano anche molto bene, poi ragionano, non so come fa pagare che ripeto e basta. Ma meridiano dici come fa il fischietto, gli fa il fischietto del vigile, l'ho sentito con le mie orecchie farlo. E poi diceva guarda che bella ragazza, e lui faceva. Ho capito. Aspetta che mi faccio una carica merenda e torno subito. Intanto guarda se c'è qualcuno. Sì, va bene, si può entrare già. Io mi guardo un po' di Instagram. Io vado un attimo in merenda, in pausa merenda. Ci arrivo subito. Eh beh già. Poi, ciao Luca. No, già mi intende. Ciao Luca. No, non ero io, no, chiama, chi è che chiama Riccardino avanti? Ditemelo, io vado in pausa merenda, comunque ciao Luca. Ciao Ricca. E beh, come sta Luna, Luca? Ha fatto la visita stamattina, me l'ha tutta controllata, praticamente con la fattura voleva 60, e mi ha chiesto 50, senza fattura. Praticamente tutti i miei, due là, detto papale. Non è un tumore quello comunque, però si è atrofizzato, cioè si sta rimpicciolendo, capito? Sta sparendo. Ah, e che cos'era? Dicono che dovuto la vagina fuori ce l'aveva, capito? Però adesso bisogna fare un'altra visita che mi costa 70 euro per controllargli il cuore. E se no vuole operata, perché... come si dice, vuole operata perché non sta bene, già capito, e per i tumori che c'ha, anche per i tumori dei mammellari, non lo so, è solo darmi cazzo, farla soffrire così operandola, è grande già, mi sa che come viene lasciarla così, infatti non mi garantisco niente, non si sa manco se campa o se muore sotto i ferri. Oh, ma allora io per esperta su una cosa, quando c'hai tumori che sei anziano ti possono durare anche 10 anni, perché le cellule sono vecchie e non sviluppano in fretta, sviluppano molto lentamente le cellule morte, capito? Quindi recupera la salute del cibo, secondo me è solo farlo soffrire a operarlo. Alla fine tra una cosa e l'altra mi costa da 420 euro a 600 euro. Non lo so, se anche il caso vuole sicuramente operato per quella perdita che c'è di sangue, per la cista prostatica, e mi costa 450 euro. Vabbè già, tocca nel giovane, capito? Sì, quello sì. Giovane, c'è 5 anni, il mio cane vive 9 anni, 11, dai 9 agli 11 anni. Se sei sicuro che poi non ne prendi più, vero, confermi? No. Non lo so. Ho fatto una bella esperienza col cane, se non ce l'ha il cane non riesce a capirlo, capito? Per me è stata una bella esperienza, sì è vero che devi stare a scendere giù a volte che non hai voglia, che sta piovendo e cose, però dà tanto un animale come il cane. Anch'io ho una bella esperienza con Luna, ma bella veramente, 12 anni qua, quasi 12 anni, ma veramente guarda, alla grande, solo che poi non l'ho mai vista così, sono affezionatissimo, molto affezionato. E poi vedendolo così un po', sai com'è, no? Sei male anche tu perché fa parte integrante della famiglia, capito? Stai male anche tu quando stanno male loro. È peso, quando perdo il sangue io impazzisco, divento scemo, cazzo. A parte che mi sporca tutto, devo stare a lavare la roba, ma a parte quello lì. Quando vedo che non gli si ferma il sangue e vengono le emorragie così, è un casino. Lo so. Comunque l'animale, cane o gatto che sia, è un lusso, È un lusso, ma dipende, perché io ci avevo attitto il gatto, non si è mai ammalato di un raffreddore di niente, mai avuto nulla. Lui l'ho avuto esattamente 19 anni. L'ho avuto 19 anni, non si è mai ammalato di un raffreddore, niente. Ci credo già, ci credo, solo che così ha detto il veterinario che è un lusso, cioè non fatto non ti aiuta, capito? Infatti, non ti aiuta, ti vogliono mettere le tasse perché è il cane adesso. Vedi che noi ci operano gratis, qualsiasi tipo di operatore ce lo fanno gratis. E perché a loro no? A loro bisogna pagare? Perché è un lusso. Così. È come avere la macchina bella che paghi il bollo a dopo. Avanti Giacomino. Sì, vado avanti io comunque ormai sono Giacomino. Riccardino. Giacomino, Vicenzino, io metto Giammi, boh. Ah Luca, io gli stavo per mandare un massaggio ma era troppo tardi. Quella persona fantana. Lì, ha detto. aspetta cosa sono trappancione. Aspetta, Il display. Invece che display. Che bastardo. Display. Io stavo per scriverti, l'ho mai troppo tardi, sta magari trumito. E io mi addormento subito, poi a 1:30. Ma hai sentito di notte a Claudio, può essere, al 10. No. Su 10 c'ero io, Torino, poi è entrato Alessio, Gianni Capridue e il figlio. Poi è entrato anche, come si chiama? Fabio. Ma di spray è entrato. Display. Scrivi tutte le parole. Display. Se c'è il display. E poi l'altra parola c'è qual è? Il boom delle cose invece che il boom. Le pantane. Qui com'era? Ma l'altra parola. Ce l'hai? tu aiutami. Il catalogo. Ok. Luca, ce l'ha il catalogo della Inter, perché devo guardare una partita. Sì, che ce l'ho, catalogo, sì. Con l'apparecchio con display blu. L'hai mai visto quello che ha display blu? Ma che state affrettando, Gianni? Ciao. Sì, già l'ho visto. Ciao, buonanotte. Franco. A chi state affrettando? Ah? A chi state affrettando, ho detto. No, nessuno. Chi entra lui ci sta bene, dai. Stavamo facendo un po' di cose. Stavamo rammentando alcune cose, alcuni strafalcioni, dai. Ehi, dico, chi è che state affrettando a Pizzi? Vabbè. Ricordati dell'altro giorno. non so se c'è, comunque saluto anche Riccardo, anche se lo sto perdendo, come mai? Stai invece migliorando e stai di nuovo peggiorando, Riccardo, aiuto, mettiti in linea. Cosa volevo dire? Comunque Luca c'ha un po' di internata, me la senti io già? No, non ci ho fatto caso, prova Luca, ma portante bianca. Perché ce l'ho alimentata, aspetta. Guarda adesso, ce l'ho ancora? Io la sento un po' di internata, me. Che cosa mi hai detto, scusa? Non ho capito. Con chi ce l'hai, Riccardo? Con Franco. Riccardo. Prima mi sei arrivato un segnale di 7, adesso sei di nuovo neanche uno mi sta arrivando, boh. Siamo a scherzi a parte. No, veramente. È che non ho il tuo numero, se no ti avrei fatto un video te l'avrei mandato. No, fra, qua sta arrivando bene, 9.30 qua. Qui ha perso molto invece. Quando ha montato il K, la prima volta che l'ha piazzato, proprio mi arrivava a 7-8, non ho mai visto un segnale del genere. Adesso è ritornato come prima. Vabbè, ma il K lo sai, no, com'è? Da 20 watt minimo, poi aumenta, cioè, il K è un apparecchio che esce fino a 100 watt, quindi immaginati tu. Questi sono apparecchi normali e fanno benissimo, io lo ascolto bene. Tu, Luca, me l'ascolti? Segnale 9 qua. K, anche tu lo ascolti più basso, ma qua ti va bene. Questo apparecchio qua è un bel rimito. A dare segnale, di solito quando arriva 9 e 9.10. Oramai lo so, perché ho fatto delle comparazioni e con altri apparecchi è praticamente così. Quando arriva 9 e 9.10, se arriva 9.30 e 9.40, dai. Ma tu sei sempre uguale, sei sul più del 30, quindi non si è cambiato niente. È cambiato lui. Oh, vabbè, io sono vicino, fra. Kappa. L'altro giorno sono arrivato a 9.30 a Padova. Franco, io quando ti arrivo ora un po'? 9.25, sì, più basso, non sei a casa tua? No, 9.25, io non ho un'antenna da niente, anche tu sei 9.25 qua. Kappa, mi sembra che stia usando un radiale di Mantova, se non sbaglio, così? Si conferma. A proposito di Mantova, chiedo scusa Riccardo, sto controllando quella che c'è giù in campagna, praticamente mai l'hai smontata tu a livello di bobina? No, non ti ho capito la domanda che hai fatto, Fra. No, se qualcuno di voi la Mantova 1 l'ha mai smontata, perché ho notato che la bobina è staccata dalla, diciamo, dalla parte in vetroresina, dove attacca poi la spirale, no? C'è il filo in rame staccato e bisogna quindi smontarla e rifarla nuovo la bobina. Ah, sì. Mi ha fatto Roberto Quadrato, lui lo sa come fare. Vuole riparata, vuole. Pensavo che fosse buona invece. E poi c'è tutti, come si chiama, i cappuccetti dei radiali, quelli in ottone sono tutti saltati. Bisogna tutti ricostruirli, da. Ma quale? Quella che c'è in campagna? Sì, quella che avevo smontato anni fa, 20-30 anni fa. È messa sotto una tettoia, però ho visto che è rovinata. Dai Angelo! Oh. Angelo! Sani! Ehi! Ti sto chiedendo, ma tu quanto gli anni a Franco? 9.30! Sì, sembra che io ho un macchino con un'antenna 20 cm, cavolo! Ma tu forse sei più lontano di me, Riccardo, è per quello. È una posizione a volte. Boh, non lo so. Ma l'antenna è attaccata bene, dai. Controlla il PLDS. Sono scendo con meno di 10 watt. Io sto scendo con 5 quasi, dai, 5 watt, questo l'ho abbassato. Io 3 watt e mezzo modulati 4. Basta di bianco per me. Eia. Magari mi sta venendo a parlare a ricambire perché è più lontano che non lo so. Vabbè, qua arriva sempre forte perché c'è lo continuo di schioppo. In linea d'aria siamo vicini. Sì, tu diciamo che sei forse a metà strada tra me e lui, però magari io per più di te c'ho un canale più aperto, conta che anche l'antenna mia non supera i palazzi, quindi lui dietro la montagna praticamente non lo vedo, le antenne non si vedono. Ma mi è sempre arrivato male, sempre basso, solo col K quando l'ho attaccato, che sicuramente minimo era una cinquantina di watt, è arrivato con un bel segnale, infatti ho detto va. Ha migliorato parecchio, invece adesso di nuovo è tornato come prima. Ma adesso tu che appena stai usando quella che hai fatto per ultima? No, la prima sto usando. Quindi quella lì dovrebbe andare bene, dai. Quella dei segnali li riceve bene. Non lo so, infatti sto guardando su internet, c'è un analizzatore d'antenna fatto in Cina che costa una cavolata, cioè rispetto a quelli che vedi da 300, 400 euro, 500 euro, lo trovi anche con 30 euro, ed è una scatoletta piccolina, ha fatto 2 pacchetti di sigarette, sottile, e ti fa tutta l'analisi dell'antenna, sono mezzo intenzionato a ordinarlo, quello ti dice proprio come sta lavorando l'antenna, ti dà l'impedenza, se è giusta, l'induttanza, la reazione, tutto quanto ti dà, tutta l'analisi, puoi misurare il cavo, le perdite, qualsiasi antenna di un portatile, fai quello che vuoi, ti fa l'analisi proprio perfetta. C'è un apparecchio buono, se dico di cinesi che non vanno. Ho letto ho ascoltato dei video, ne parlano tutti bene, è un bel giocattolino, dai. Quanto costa? 40 euro. Sì, anche di me non l'ho visto, dipende dalla versione, ci sono versioni diciamo evolute, ci sono molti cloni in giro perché hanno visto che stava andando, allora subito, cioè i cinesi hanno copiato i cinesi, perché è tutta roba in Cina, fatta in Cina. Vabbè, tu compra quello più buono, visto che lo stai prendendo. Bisogna fare un'indagine, vedere qualche... Ne parla anche Roger K, qualcuno li ha provati quasi tutti, mi ha pubblicato qualcosa sul loro. Su Roger K, dunque si chiama, se lo puoi guardare si chiama Nano VNA, Nano VNA, poi ci sono varie versioni H, F e così via, dai. Guarda, se ce l'hai il telefono a disposizione con internet, prova a guardare. C'è, non fra. K, puoi cercarlo direttamente poi sui tutorial che ci sono su internet, su... come cavolo si chiama? Perché adesso non mi viene, là. Su YouTube? È tutto in inglese, però con qualche tutorial riesci a fare almeno le cose principali, perché c'è un sacco di funzioni. Da 50 a 900 MHz, quello lì è. Sì, gli ultimi addirittura arrivano a 1500 MHz, ma a noi ci bastano non so, 144 MHz per 440 e poi a 27 MHz, le altre non ci interessano. Sono carini, Tipo quelle scatolette, guarda, vedi, ci sta la malapena in mano. Infatti è consigliabile usare il pennino perché col dito magari non riesci a centrare i vari tasti, no? Assomiglia a un navigatore, da un conto. Sì, poi lo puoi calibrare, c'hai i vari tappi, no, per calibrarlo, c'hai i tappi aperti, chiusi, in corto, poi c'è quello con carico fittizio da 50 ohm, una volta che lo tari poi sacchi tutto e attacchi quello che devi attaccare, no? Per essere sicuro che sia tarato, che si può starare in base alle temperature, per esempio, avendo parte di metallo all'interno. Cavagano. E c'è anche Amazon, AliExpress, quindi siti abbastanza... E che arriva dalla Cina, chissà quanto ci mette a arrivare. A meno che Amazon non abbia qualcosa in deposito, bisogna vedere, dai. Amazon te lo manda subito, in 3 giorni ti arriva, se ce l'ha. No, non c'è problema. Vabbè, per chi fa le antenne, va bene, dai. Uno che le costruisce spesso. Sì, controlla anche le stazionarie a livello di magari più preciso, di un crossmetro di scarsa, tipo quelle che c'è tipo lo ZG, dai, sicuramente quello è superiore. Ti fa il grafico come lavora l'antenna, no? A che frequenza sta lavorando, quindi se è lunga, se è corta, puoi trovare anche quella della macchina, puoi verificare l'impianto della macchina, qualsiasi cosa. Sì, cosa lo fai? Lo volevo fare l'impianto in macchina, ma poi ci ho ripensato, dai. Perché è inutile che lo faccia, c'è poca gente, sta cominciando a diminuire, cosa lo fai a fare? Io l'ho fatto, l'ho messa dietro la ruota di scorta, ma non va bene. Rende meglio la magnetica a centro capota, figurati. Sì, a centro capota la magnetica va benissimo, solo che ti graffia la macchina, lo batti, io ho la macchina nuova, non c'ha manco 2 anni. Boh, vediamo che Riccardo ci sei. Dove è andato Riccardo? Mi sono andato ai buchi. Stai, guarda il stazionario, come sono messo. Sono una stravolta oggi, lo sai. No, una sonnolenza addosso, guarda, ma una cosa strana, una stanchezza. Vabbè, mi sono alzato presto stamattina, mi sono alzato alle 7:30. Ma sento questa sonnolenza addosso, strana, gli occhi lacrimosi. Cato, io la sveglia era alle 5, ma mi sono svegliato alle 3, cato, 2 ore prima, col pensiero di fare ritardo dal lavoro invece. E quindi poco fa ho cabuzzato, penso un'oretta, 2 ore, mi sono addormentato dopo pranzo. Anche io mi stavo addormentando, poi uno mi ha fatto un colpo di telefono e mi ha svegliato. Stavo guardando qualcosa al telefono e mi stava cadendo di mano, ho detto, aiuto, un po' di carenza di sonno. Eh sì, perché poi molla, piano piano ce l'hai in mano, comunque piano piano si allarga e si rifà. Vabbè. Luca, ci sei? Sì, sono ancora vivo. E qui c'è il cagnolino che non sta bene. L'altro giorno ne ho visto una, poverino, lì al Ghero, questo tipo facendo manovra, non ha visto il cane, gli è passato sopra, no, non una volta, 2 volte. L'ha portato al veterinario, sicuramente guarda, il cane è vecchio, quindi non ha sentito la macchina. Lui non l'ha visto, non ho capito da dove ci ha sbucato, mai è successa una cosa del genere. Comunque ancora vivo, ha speso mi sembra 700 euro di intervento, ma ormai la bicicca era vuota, dice, quindi non l'ha scoppiata, non è scoppiata, dai. Però è ancora vivo. Ho capito, bro. Assurdo. Povaraccio. Cazzo, era distrutto il padrone mentre lo raccontava con le lacrime agli occhi, poverino. Oh, yeah. Che cane è? È un meticcio, non è che... mezzo barboncino, va. Però è un cane carino, bellino da vedere. Un incrocio tra via Leonberto e via Duca degli Abruzzi, una cosa del genere, da. Tra la batticcia o frigorifero? Un husky, era amico. Sappaga. Vabbè. Può essere anche un meticcio, però se ti attenzioni al cane, anzi i meticci sono più intelligenti degli altri, lo sai. Io l'ho avuto un meticcio, faceva di tutto, guarda, mi facevi fare quello che volevi. No, anche i miei amici hanno, tutti i meticci sono veramente simpatici. Uno è proprio bravissimo, mi viene addosso, cioè addosso, vicino, vuole essere accarezzato, non è invadente, non è quelli che ti salta sopra. Il mio, se conosce le persone è così, se no guai, non fa avvicinare. No, qua a casa abbiamo un gatto, ce l'abbiamo già 4 anni, io ero un po' contrario, gli animali dentro casa, loro l'hanno voluto, quindi 2 contro 1 ha vinto la maggioranza. 19 anni il gatto l'ha